Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, noi siamo tornati, siamo qua a Milano dopo la trasferta bolognese. Sì, non me la ricordare. No, allora, la trasmissione è stata divertentissima perché gli ascoltatori l'hanno molto apprezzata, abbiamo rinfrescato tutti i nostri bagni ed effettivamente anche poi il viaggio in treno di ritorno aveva molto a che fare con l'argomento e con l'elicobacter del professor Vaira. Sì, devo dire che è stato un ritorno un po'... Esatto, insomma le carrozze di quel treno del nostro percorso non erano proprio ben aerate, come si dice. Comunque, detto senti, questo... però non l'abbiamo fatta a piedi, perché no, è vero, esatto, che bisogna fare oltre 10.000 passi al giorno o entro i 10.000 passi per stare bene, però farsela a piedi da Bologna sarebbe stata dura. A proposito di farsela a piedi, vogliamo salutare Cristina, una nostra ascoltatrice, esatto, che ci ha scritto e postato una foto della sua camminata, pensate, all'alba, mentre ci ascolta in podcast. Brava la nostra Cristina, e allora vi invitiamo subito anche a raccontarci come e quando ci seguite. Cristina sarà premiata con un libro di Cuore Denari, altro che, perché ha fatto una scelta alla Cuore Denari, ha deciso di investire sulla propria salute scegliendo un'attività come il cammino, che noi sappiamo bene è promossa dalla ricerca dell'OMS perché regala benefici straordinari contro ipertensione, sovrappeso, diabete e stress, ma è un'attività, Deborah, tu che sei la donna dei denari, A costo zero, esatto. Certo. Come la mia bicicletta, perché io ieri dopo il lavoro, tornata da Bologna un po' scontenta, mi sono fatta 10 km al parco. Bene. Sei contenta. Allora, e il tuo cuore se ne sarà rallegrato. Sì. Oggi, tra l'altro, proprio la giornata del cuore, la giornata mondiale per il cuore, 800 24 00 24. Se avete cuore il vostro cuore, vi aspettiamo con i nostri esperti. Ma voi avete a cuore anche i vostri risparmi e, come sapete, lo sapete bene perché è un tema di cui parliamo frequentemente, siamo sempre più indecisi come gestirli. Per questo ogni giovedì proviamo a darvi una mano, quantomeno a decifrare i complessi fatti finanziari che movimentano le giornate e anche i nostri investimenti. Oggi ad esempio c'è il petrolio che è tornato a correre dopo l'accordo di Algeri di ieri dell'OPEC, e di questo e tanto altro ancora parleremo nella nostra scuola di risparmio, quella del giovedì, Investire Informati. Ma prima di parlare della giornata mondiale del cuore, commentiamo insieme una notizia che ci sta sicuramente a cuore, l'avrete ascoltata, c'è stato un approfondimento ieri effetto notte, l'hanno trattata naturalmente i nostri GR, sempre proprio come si dice sul pezzo, ma noi torniamo a parlarne sull'annullamento della proiezione in Senato del docufilm Vaxed, dall'insabbiamento alla catastrofe. Lo facciamo naturalmente col professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo il piacere di avere in linea. Professore, buongiorno. Buongiorno. Due note, se fosse ancora il caso, sulla pellicola, professore, e anche sulla scelta di, no? Del Senato, diciamo, come... Guardi, è proprio questa, ecco, la scelta del Senato, che in realtà, sottolineo, non era del Senato ma era di un singolo senatore, tant'è vero che il presidente Grasso, veramente con grandissima sensibilità e tempestività, una volta sollecitato dal ministro, da noi, dalla comunità scientifica, direi tutta, ha fatto una moral suasion per far annullare questo evento, perché ci può essere che ci sono sempre stati ciarlatani, gli imbroglioni che abusano della credulità popolare, e questo è proprio il caso di questo Wakefield. Questo Wakefield è un malfattore che è stato radiato dall'ordine dei medici inglesi, che a questo punto non sa come sbarcare il lunario e si è inventata questa vena artistica facendo questo film, di cui di fatto è il produttore, il regista, insomma è uno degli motori principali, e il fatto è che questo è un truffatore, cioè questo è uno che è stato pagato, diciamo, dall'industria, è stato pagato da alcuni avvocati a suo tempo generando un lavoro falso che suggeriva una correlazione tra la vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite con l'autismo, cosa smentita da tutti gli studi, da tutte le attività che in tutto il mondo si sono susseguite, e però rimane nel web e rimangono e rimane qui. Molto popolare anche in rete, esatto, e esatto. Anche per soddisfare le tante richieste della rete ci sarà poi sono stati fissati anche 4 appuntamenti italiani per vedere la pellicola e innescare il dibattito. Professore, immagino, no? Di fronte noi l'abbiamo dati e sottolineati tante volte, il calo delle vaccinazioni, i primi dati sul 2015 registrano un nuovo calo dell'1,5%. vi trovate ogni giorno ad affrontare queste polemiche animate soprattutto dal dibattito in rete. È molto difficile e complesso, ci sono anche delle regioni che hanno pensato, stanno pensando a rimedi drastici, come ad esempio l'Emilia, per impedire a iscriversi all'asilo nido i bambini non vaccinati. Lei pensa che queste scelte possono in qualche modo allontanare o aprire gli occhi ai genitori? Ma innanzitutto bisogna cercare di formare bene, cioè di convincere i genitori che fare la vaccinazione nei confronti dei propri figli è la scelta più saggia, che le malattie per cui queste vaccinazioni ci sono non sono scomparse. Proprio le vaccinazioni le hanno ridotte ai minimi termini, ma i germi che le producono sono ancora qui circolanti, soprattutto in un'epoca in cui ci si muove con grande facilità. E quindi la prima cosa è convincere. Ove però non si riesca a convincere, quindi là come in Italia percentuale di vaccinati scende sotto la soglia di sicurezza, che è il 95%, che noi ormai abbiamo superato da 2 anni, allora bisogna intervenire, ma non tanto per convincere o obbligare, ma quanto per proteggere i bambini e le persone che non si possono vaccinare. Per esempio, i bambini che hanno dei tumori, in Italia sono 1.500, non si possono vaccinare. Andando a scuola corrono il rischio, di ammalarsi, a contatto con dei compagni non vaccinati, di ammalarsi di morbillo, di rosolia, di parotite, di pertosse, cioè di prendere malattie che, uno, sono prevenibili con dei vaccini sicurissimi, due, magari nei bambini che sono protetti, ovviamente non si verificano, ma nei bambini non vaccinati possono verificarsi, e nel caso loro, se la prendono, possono morire, come è successo in diversi casi già in Italia. Professor Ricciardi, ieri è stato presentato il calendario della vita, presenta delle novità, ci aggiorna, ci sono nuovi vaccini ma anche qualche indicazione in più su chi e quando vaccinarsi. Il calendario della vita è un'ottima iniziativa presa da alcune società scientifiche importanti, come quella degli igienisti, quella dei pediatri, quelli dei medici di medicina generale. È un'ottima analisi di quello che oggi la scienza ci mette a disposizione. Io faccio però riferimento al Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale, che lo Stato e le Regioni hanno approvato di fatto, e quello secondo me è il momento più importante, cioè il fatto che noi introduciamo per esempio tutte le vaccinazioni contro la meningite che noi oggi abbiamo a disposizione gratuitamente per tutti quanti i bambini, introduciamo vaccinazioni che un tempo erano rivolte solo alle donne, come quelle contro il papillomavirus anche per i maschi, introduciamo il vaccino contro la polmonite e lo rafforziamo in tutte le fasce d'età, e introduciamo il vaccino contro il rotavirus, che è una malattia che apparentemente non drammatica, ma che invece nei paesi in via di sviluppo provoca migliaia di morti e nei paesi occidentali provoca migliaia di ospedalizzazioni. Quindi tutti questi fanno del nostro paese, nel momento in cui il Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale verrà finanziato dallo Stato, e questo io lo sottolineo, sarà gratuito per i cittadini, ci rende veramente uno dei paesi all'avanguardia sotto questo punto di vista. Professor Ricciardi, grazie. Sono già tanti gli ascoltatori che si mettono in contatto con noi all'800 24 00 24, alcuni a favore, alcuni per sottolineare un po' in modo polemico il discorso sui vaccini, come sempre. Torneremo sicuramente a parlarne. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. È caduto nel momento giusto, come si dice. Tutti gli studenti al primo anno di medicina sanno che un battito cardiaco accelerato è il segno di un problema. Il battito accelerato può indicare qualsiasi cosa, da un attacco di panico a qualcosa di molto, molto più serio. Un cuore che fibrilla o che salta un battito potrebbe essere segno di un amore, il che è il problema più grande di tutti. Per chi o cosa batte il vostro cuore, 800 24 00 24, perché per intervenire in diretta. Quel ghigno malizioso. Beh, il cuore è un argomento così bello. Certo. Un organo batte che... per te. Anche va bene, per te. Facciamo questa dichiarazione ufficiale. Anche un po' per Carmelo, che è in linea con noi. Un po', certo, anche per Laura, per Marco. Ah, tra l'altro poi ricordiamoci nei prossimi giorni di Marco, certo, Lombardo. A proposito di cuore, una bella faccenda, una di bella cuore. Una bella notizia qua. Di cuore dove i denari non c'entrano. E allora, poi salutiamo Leonardo anche. Certo. Allora, come anticipate in questa prima parte del programma, parliamo del cuore. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Allora cosa dite? Siamo in radio, sentiamolo. In linea con noi la dottoressa Maria Frigerio, direttore del De Gasperis, Cardio Center dell'Ospedale Niguarda di Milano, insieme a noi per capire le situazioni che possono mettere a rischio il nostro cuore, i campanelli d'allarme che non possiamo sottovalutare, ma vogliamo anche capire che cosa lo fa stare bene. Buongiorno, dottoressa Frigerio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Con lei e la Fondazione De Gasperis, Ospedale Niguarda, Cuore Denari ha fatto un percorso speciale, un percorso colorato, tutto dedicato al nostro cuore. Ne abbiamo dette fatte di tutti i colori, rimandiamo naturalmente i nostri ascoltatori alle pagine dedicate a questo progetto dove possono trovare naturalmente degli approfondimenti. Oggi che colore abbinerebbe al cuore, dato che è la sua festa? Beh, oggi l'arcobaleno. Un po' appunto perché dobbiamo tenere presente le implicazioni del cuore in tanti tipi di malattie. Sentendo parlare prima dei vaccini, per esempio il vaccino contro la polmonite è raccomandato nei soggetti a rischio di malattie cardiache e nei soggetti con patologia respiratoria, perché la polmonite può aggravare una condizione cardiaca. Il rotavirus, questo quasi sconosciuto che ha citato il professor Ricciardi, può essere implicato non frequentemente, ma qualche volta in forma grave, in patologie di infiammazione cardiaca anche nei ragazzi, che si chiamano miocarditi. Quindi... E poi noi abbiamo 1000 cardiologi nostri ospiti a Milano per un convegno di cardiologia di aggiornamento annuale, e quindi abbiamo persone con... e quindi stiamo trattando tutti gli aspetti delle problematiche delle cardiopatie, e perciò l'arcobaleno mi sembra il multicolore mi sembra la condizione migliore. Dottoressa Frigerio, lei ha anticipato, si sta svolgendo in questi giorni a Milano un congresso direi di importanza straordinaria, mondiale direi, 1200 cardiologi. Ci vuole anticipare alcuni dei temi che non sono necessariamente dedicati agli addetti ai lavori, ma che cosa possiamo noi trarre da questo congresso di utile per la prevenzione o anche per capire dove sta andando la ricerca, che passi avanti sono stati fatti nella cura delle malattie cardiovascolari? Bene, prima di tutto direi il cittadino può ricavare una certa fiducia e confidenza nel servizio sanitario se pensiamo che questo corso si tiene da 50 anni a cura del nostro centro ed è un momento in cui la cardiologia italiana, una valenza sostanzialmente nazionale, si raduna e valuta le innovazioni, la propria testa, come mettere a disposizione di tutti i cittadini le cure migliori. In secondo luogo direi che di innovativo ci sono diversi aspetti. Quest'anno abbiamo avuto ospite il direttore del Centro Nazionale Trapianti, il dottor Alessandro Nanni Costa, e quindi direi che si sono confrontati la problematica trapianti e la problematica cardiologia, la problematica cuore artificiale delle forme di malattia più grave, lavorando anche, ragionando anche insieme sugli aspetti etici dell'allocazione degli organi e del mondo dei trapianti. Si è parlato di malattie cardiache e di malattie tumorali, di come queste possono allearsi tra loro e stabilire quella che ho definito un'associazione a delinquere, e di come invece i cardiologi e gli oncologi si stanno alleando e si possono alleare per limitare i danni di questa interazione reciproca che esiste tra le malattie e anche tra le terapie. Dottoressa Frigerio, ci fermiamo per dare la linea alle informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme a 800 24 00 24 per parlare di prevenzione, ma anche di buona manutenzione quindi, e anche di ricerca, tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it vi presenta... Cuore e denari. Siamo tornati insieme, stiamo festeggiando il nostro cuore. Oggi è la sua giornata mondiale. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Frigerio che ci ha anticipato i temi che sono stati trattati, si stanno trattando al congresso che è in corso a Milano. Dottoressa Frigerio, quindi relazione molto stretta tra tumore e malattie cardiovascolari, un'alleanza tra oncologi e cardiologi. Direi che questo è un aspetto anche molto importante, anche perché, diciamo così, in un certo senso qualche volta noi quando comunichiamo con i cittadini ci sentiamo un po' come dei concorrenti, no? Le persone si preoccupano molto di più dei tumori che non delle malattie cardiache, e quindi noi cardiologi a volte facciamo fatica a fare breccia nell'opinione pubblica e un pochettino invidiamo i nostri colleghi. Abbiamo deciso che invece di farci concorrenza, è meglio fare un'alleanza a favore dei cittadini, della prevenzione e dell'armonizzazione delle cure nella maniera migliore per ciascun paziente. Saggia idea, potremmo adottarla anche noi, invece che fare concorrenza o mettersi in lotta tutti i giorni con il vicino, con il collega, l'alleanza produrrebbe degli effetti straordinari, terapeutici. Deborah, lo sai che ho letto una notizia carina che ci dà un po' il polso della situazione sull'importanza del cuore anche nelle varie comunicazioni. L'emoticon del cuore è quello più usato al mondo, è un primato singolare, bisogna anche puntare, dobbiamo fare anche il simbolino dei denari. Ah, dai, sì, per adesso vinco io con c'è però il dollarone, se ad andarla a cercare, ma bisogna cercare tanto. Quindi se volete mandarci qualche cuoricino, se ne avete già mandato, 800 24, oppure la faccina che lancia i cuoricini, brava, ci piace quella lo stesso, che sbaciucchia. Intanto abbiamo parlato prima di polso, non l'abbiamo fatto a caso, infatti se avete le mani libere avremo una proposta per voi che commentiamo poi con la dottoressa Frigerio, ma anche con Sergio da Lucca. Sergio, mi stia bene ad ascoltare, questo è per lei. Appoggia 4 o 2 polpastrelli della mano direttamente sulla parte inferiore del polso, dove senti pulsare l'arteria. In alternativa, se ti è più comodo, appoggia i polpastrelli di indice e medio sul collo sotto la mandibola lateralmente. Conta il numero dei battiti per 15 secondi e moltiplica per 4. Dottoressa Frigeri, abbiamo spiegato bene, abbastanza chiaro? E intanto, abbastanza, sì. Abbastanza, cosa bisogna aggiungere, dottoressa? Conta il numero dei battiti per 25 secondi, per 15 secondi moltiplica per 4, certo 60 secondi, perfetto, giusto? Giusto. Calcoliamo la frequenza, otteniamo la frequenza, che è meglio che non sia troppo alta, che non sia troppo bassa e che i battiti siano regolari. Allora, non deve essere alta, non deve essere bassa, ma che cosa significa alta o bassa e poi che cosa significa regolare? Intanto Sergio da Lucca ha provato forse a contare i suoi battiti. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, vede? Cade proprio come il cacio sui maccheroni. Allora, posso parlare? Certo. Allora, il problema mio è questo. Faccio una leggera anamnesi. No, Sergio, rapidamente, perché se ricominciamo da ragazzo mi sfumano no, col GR. Per spiegare la situazione. Sì. Io fino a 4-5 anni fa ho avuto i battiti cardiaci a 60, a 57. Mm. 57 al minuto, sempre provati con la macchina, neanche a mano. Poi attualmente mi si stanno diminuendo e sono arrivato al punto attuale che a riposo mi sono su 52-53. Io vorrei sapere se devo è normale o è una questo cosa. Grazie Sergio per questa bella domanda che giriamo alla dottoressa Frigerio. Dottoressa, bassa, alta, regolare, che cosa significano queste parole? Diciamo che se questa è la frequenza a riposo è nella fascia bassa della media, non costituisce di per sé una malattia. Se non ha mai fatto un elettrocardiogramma, questo signore, che non so quanti anni abbia, non so che fa attività sportiva, tutto sommato vale la pena che lo faccia, soprattutto se magari ha avuto dei parenti che hanno avuto bisogno di mettere dei pacemaker o che hanno avuto malattie cardiache. Diversamente, se sta bene, non ha altri fattori di rischio, non ha mai avuto capogiri, il battito è regolare e può svolgere una buona attività fisica, direi che non ha problemi. E tutto sommato il cuore si affatica meno se la frequenza non è alta che non quando è troppo alta. Quindi a che numeri dovremmo puntare? Direi che appunto ci sono delle variabili anche in rapporto all'età, all'attività fisica, a diverse condizioni, però diciamo che tra i 55 e i 70 a riposo è possiamo una cosa stare piuttosto normale. Ci sono naturalmente altre misurazioni che permettono di valutare la salute del nostro cuore e anche il rischio che potrebbe avere di ammalarsi. Sono quelli della pressione, del colesterolo, della circonferenza addominale. Li conosciamo tutti, dottoressa, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, in tante trasmissioni. Lei ci aiuterà a capire anche perché possono, in quali condizioni, diventare dei potenziali nemici del nostro cuore. Partiamo dalla pressione con un flash rapido prima del nostro GR. A partire da quali valori fa male al cuore? Diciamo che c'è un continuum, non c'è un momento, un valore soglia effettivo, perché in realtà non è che è come il nostro stipendio, se prendiamo un euro di più o di meno non cambia moltissimo, quello che cambia sui grandi numeri, ma c'è un continuo. E allora diciamo che tendiamo sopra i 130 di pressione massima, sopra gli 85-90 di pressione minima, non è una bella cosa. Però se abbiamo dei valori più bassi, tutto sommato è meglio, ed è difficile, soprattutto in un soggetto non troppo anziano, avere dei disturbi da pressione bassa con una pressione massima che è sui 100-105. Non è troppo bassa, diciamo che ce la possiamo tenere tranquillamente nella maggior parte dei casi. Non ci fermeremo naturalmente alla pressione, continueremo dopo il GR insieme alla dottoressa Frigerio. Ti possiamo dire in diretta dal congresso, proprio abbiamo la nostra inviata, dottoressa Frigerio, tra poco GR. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa? Riprendiamo il passo per questa seconda parte del programma con la voce di Arisa, una donna che canta con il cuore di cuore, Deborah, ma è una donna e anche la nostra ospite di oggi, la dottoressa Maria Frigerio, che ci ha accompagnato in un percorso a colori per parlare di cuore, della salute di questo organo, di quanto sia importante tutelarlo e per proteggere il nostro cuore dobbiamo conoscere bene i nemici, i fattori di rischio che possono minacciarlo. Sulla pressione abbiamo detto, dottoressa Frigerio, rapidamente un accenno ancora al colesterolo, ci aiuti un po' a capire con un esempio che cosa significa avere livelli di colesterolo elevati e come questo si traduce in un rischio a livello cardiaco, perché secondo le ultime ricerche meno del 50% degli italiani conosce il proprio valore di colesterolo LDL, certo. E di questi solo un quarto lo cura efficacemente, insomma un po' anche come i vaccini. Ci sono delle cose che l'evidenza dimostra essenziali, fondamentali, e poi non si riesce a capire come mai facciamo un po', no? Ci sono un po' dei buchi. Ma forse perché noi siamo più propensi a occuparci di quello che è buono e a consolarci, quindi ci consoliamo pensando al colesterolo cosiddetto buono, l'HDL, e ci preoccupiamo di meno invece di quello cattivo, LDL. Un po' anche perché noi stessi medici, come dire, man mano che aumentano le conoscenze, orientiamo un pochettino il nostro focus su un valore piuttosto che un altro. Poi i valori di colesterolo, come dire, rappresentano un rischio anche in rapporto ad altri. Se abbiamo già avuto o se abbiamo altri problemi di natura cardiovascolare, allora dobbiamo essere molto più stringenti nel perseguire dei valori di colesterolo LDL bassi, anche molto bassi, sotto i 100, sotto gli 80. Però, come dire, credo che sia bene che ciascuno si avvicini al suo medico e valuti con lui il proprio profilo di rischio. Quello che il paziente, il cittadino, non ancora paziente, il soggetto singolo può fare è cercare di tenere il peso forma e fare come la signora Cristina con cui avete cominciato la trasmissione, camminare, muoversi, perché muoversi aiuta a non fermare anche il nostro cuore, a farlo muovere nel modo giusto. E noi continueremo anche con iniziative, puntate, appuntamenti per aiutare tutti voi che ci seguite a mantenere in salute il vostro cuore, ma anche a rispondere alle vostre domande. Se avete già incontrato o avete superato un problema cardiovascolare, avete bisogno della consulenza dei nostri esperti, noi possiamo contare sull'equipe della dottoressa Frigerio. Mi sto allargando, dottoressa Frigerio, ma arrivano tante domande che lei sa, noi le gireremo tutte. La lasciamo lasciamo al suo convegno, certo, ai suoi oltre 1000 ospiti, e buon lavoro, mi raccomando. Grazie. Lavorate per noi. Certamente, un saluto a voi e agli ascoltatori. Buongiorno, grazie dottoressa Frigerio. Allora, la promozione della cultura, della prevenzione passa anche, pensate, Deborah, tu che parli di banche, c'è anche la banca del cuore e ne parliamo direttamente con il suo ideatore, il dottor Michele Gulizia, presidente dell'AMCO, che è l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttore della divisione di cardiologia all'ospedale di Catania. Buongiorno dottore, benvenuto, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, bella idea, così finalmente posso parlare anch'io di banche con Deborah. Che cosa sei inventato? Anche domani ne parliamo, lo anticipo già. Bravo. E costi dei conti correnti. Benissimo. Ma è quello che la Banca del Cuore, appunto, un progetto unico al mondo che è promosso dall'AMCO, ma anche dalla Fondazione per il Tuo Cuore, della nostra Associazione dei Cardiologi, con il sostegno dell'Istituto Superiore di Sanità, e che ha l'obiettivo di costituire il primo grande registro permanente nazionale degli elettrocardiogrammi, dei valori della pressione arteriosa e soprattutto di quelle importanti notizie della storia di ogni soggetto, di ogni cardiopatico, che poi gli permette di usufruire di questo stesso servizio, perché li può vedere in qualunque modo, in qualunque momento, attraverso un collegamento internet, e quindi utilizzarlo proprio anche come salvacuore, come salvavita. Ma in pratica, dottor Gulizia, l'idea mi sembra davvero straordinaria, perché ci permette di avere tutto subito sotto controllo, senza il supporto di carte, foglietti che poi si perdono. Ma come si fa, insomma, a entrare in questa banca del cuore? Che cosa dobbiamo fare noi? È davvero molto semplice. La prima cosa da fare è collegarsi al sito della Banca del Cuore, che è www.bancadelcuore.it, e verificare qual è la cardiologia più vicina al proprio posto di lavoro, alla propria residenza, dove si può prenotare una semplice visita chiedendo il rilascio gratuito della Bancomat, questa card che ha un nome analogo al quello della più famosa carta di debito, il Bancomat, visto che parliamo di banca del cuore, che è assolutamente gratuita, che è importante perché contiene tre dati: un numeretto progressivo della carta, il codice fiscale di ogni singolo soggetto e una password segreta che il paziente, il cittadino, gratta. Quando il paziente avrà fatto l'elettrocardiogramma, avrà risposto alle domande che gli vengono fatte dal medico e dall'infermiere, che carica tutto sul database, fa un click, per cui manda il tutto sulla nuvola di internet, appunto sulla cassaforte digitale Banca del Cuore, da quel momento il cittadino, collegandosi per internet col telefonino, tablet, computer, e mettendo le proprie credenziali, che poi alla fine saranno solamente il codice fiscale e la password segreta, potrà vedere il proprio elettrocardiogramma, il proprio valore di pressorio, tra qualche mese anche quello di colesterolo e l'emoglobina glicata, e tutta quella parte di storia che caratterizza il paziente, ovvero se ha avuto un infarto, se soffre di ipertensione arteriosa, di fibrillazione, di scompenso, se ha fatto angioplastica, eccetera, che sono utilissimi in caso di emergenza in un pronto soccorso, quando non si hanno le proprie carte d'appresso, o comunque quando si va dal medico, o semplicemente quando si deve esibire il certificato, l'elettrocardiogramma, alla propria palestra. Quindi è una rivoluzione che semplificherà la gestione della propria salute ai cittadini, ma risulta anche molto utile ai medici, perché proprio permette anche di fare uno screening molto cardiovascolare molto vasto della popolazione. Certo, assolutamente sì, perché noi ovviamente in quel momento in cui rilasciamo la card, intanto diciamo al paziente se ha un buon elettrocardiogramma e se la sua pressione va bene. Ma poi soprattutto noi, siccome il paziente firma un consenso informato, perché tutti questi elettrocardiogrammi in maniera assolutamente anonima, tengo a precisarlo, con una crittografia che appunto significa la chiave segreta, che è talmente complicata che è simile a quella che utilizza la NASA, e vengono elaborati per capire, in una ricerca molto ampia, per quale motivo ci sono soggetti magri che fanno sport, che hanno il colesterolo a posto, che non fumano, la glicemia a posto, ma che fanno l'infarto, e perché ce ne sono altri di compenso, stiamo parlando di circa il 5% della popolazione, che pur essendo obesi, diabetici, col colesterolo alto, non lo fanno. E ovviamente queste variabili le possiamo trovare solo analizzando, certo, big data, cioè dei grandi dati che sono correlati anche al sesso, all'età del paziente, alla sua storia clinica, per cercare di capire quali marcatori, cioè quali indici possono essere decelati per capire se ognuno di noi a una certa età, in un certo momento della propria vita, rischia di andare incontro a un infarto del cuore, a un'aritmia o a un ictus cerebrale. Dottore, bellissima notizia, quindi bancadelcuore.it, gratuito naturalmente. Assolutamente sì, rilascio della card è assolutamente gratuita e comunque viene rilasciata. Banca del Cuore non si fa solo nelle cardiologie aderenti, che sono sempre di più, ma in tutte le grosse feste, in tutti i grossi eventi, ultimamente anche la Fiera del Levante, la Fiera di Melpignano, alla Notte della Taranta, ma in tanti altri eventi sono presenti i banchetti ambulatori. Quindi chiedete al cardiologo il vostro bancomat. Grazie. Assolutamente. Grazie, dottor Gulizia. Tra poco anche un progetto TIR che girerà l'Italia, un track che si fermerà in 55 piazze per 5 giorni, per tutto l'arco del 2017, dove sarà possibile non solo fare gratuitamente la card in qualunque momento del giorno o del pomeriggio, ma la sera faremo tante riunioni gratuite per cittadini, per medici, faremo una sorta di tavola rotonda aperta a chi vuole bellissimo, per discutere della prevenzione cardiovascolare. Ci piace. Non è possibile sfuggire loro. Ci vengono a stanare in ogni posto. No. Bravo. Cardiologi. Grazie, dottor Gulizia. Diamo il giusto valore al nostro cuore, mettiamolo al sicuro. Mettiamolo nella banca del cuore. Grazie, dottor Gulizia. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a voi. Hai visto sempre più intrecciato cuore denari. Stavo dicendo la stessa cosa. No, è vero, anche perché adesso il tema che vado ad introdurre mette a dura prova il nostro cuore spesso e volentieri, soprattutto quando le giornate sui mercati finanziari sono particolarmente negativi. Oggi il quadro è positivo, tutto merito di quanto è successo ad Algeri ieri, quando è stato rivisto questo tetto produttivo, contrariamente a quanto veniva indicato alla vigilia. Ma insomma, a parte questo fatto che oggi ha ridato un po' di fiato ai mercati finanziari, in realtà da qualche giorno è tornata un pochino di preoccupazione. Si aggira in Europa un tema che sembra farsi sempre più grande, quello del ritorno di una grande crisi bancaria. C'è il caso Deutsche Bank in Germania. Accanto a questo tema, che non possiamo definire certamente trascurabile, abbiamo avuto modo di commentare largamente anche le iniziative a proposito di banche, delle banche centrali. Settimana scorsa un focus molto attento proprio ad investire in formati, lo abbiamo fatto sulle riunioni dei giorni passati della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, e della Banca del Giappone. E poi c'è il ritorno della volatilità in borsa, come vi dicevo. Le obbligazioni governative, i titoli di Stato che continuano a sperimentare rendimenti sempre più negativi, e dicevamo sullo sfondo il petrolio, siamo reduci dal meeting dell'OPEC di Algeri. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere un autunno caldo, ce ne dobbiamo preoccupare, un autunno caldo a guardarlo dal punto di vista dei mercati finanziari, il che ci offrirà tanti spunti per arricchire sicuramente ogni giovedì la nostra scuola di risparmio. Investire informati. La nostra guida ai fatti finanziari del momento oggi è Monica Defend. Un graditissimo ritorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, io la dico all'inglese adesso e poi la traduciamo come sempre in italiano, questa carica: Head of Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment, in pratica il capo staff della ricerca finanziaria in questa società. Allora, 800 24 00 24, se i fatti finanziari del momento producono nelle vostre teste, nel vostro cuore, qualche curiosità, condividetela con noi e la commenteremo naturalmente insieme. Cosa fare con questo fermento sui mercati? Come investire per proteggere il capitale e magari provare a testare nuove opportunità di investimento e rendimento? Cercheremo di capirlo questa mattina. Sono scelte abbastanza difficili da fare, anche perché appunto per proteggere il capitale si cerca di andare su qualcosa di tranquillo, lo hanno sempre rappresentato questo tema di tranquillità e titoli di Stato, e invece andiamo sempre più giù per quello che riguarda i rendimenti. Proprio stamattina abbiamo una nuova asta del Tesoro italiano che mette sul mercato BTP a 5-10 anni, quindi tra un po' vedremo quale sarà l'esito. E ieri ancora un rendimento negativo per il bot a 6 mesi, che ha testato il meno 0,25%, che peraltro non era neanche il minimo degli ultimi tempi, perché in maggio era stato toccato meno 0,26%. Questo è un po' il presupposto delle ultimissime.